il lavoro, la casa e corri. Di solito salti passi, ti scaldi per poco, poco, un po' le opposti. In una casa sull'albero come fogli vuoti, ci riempivamo l'un l'altro, lo chiami amore. Stai bene con i tuoi occhi, stai meglio dentro a un ricordo. Una piccola principessa che ama, l'urla in silenzio. Pensami tra vent'anni o telefona come Dalla. Ci lascerò le dita nel piano forte che è a casa. Ti cazzeresti con le mosche se dormi male il giorno dopo casa. Un altro incel, il mio disco come Wellbeck, vittima di se stesso. Un errore volere essere come volete che sia. Mi rifugierò sopra un letto di fogne, ma non guardo giù. Mi difenderò, anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu. Non pensarci più, non pensarci più. So che da qualche parte c'è la mia tribù. Mi rifugierò. Dove la testa non me lo ricordo. E il mio vicino si scrive alla pelle d'oca. Sono io che ho perso la percezione dei pezzi che perfeziono oltre l'umore. Mi alzo col piede giusto, quello che non comunica quando sono giù. E le cose migliori sono le più stupide, frasi che formano cose assurde. Ed io ho provato tutto ma non sembra mai abbastanza. E tu sei sempre tutto, sai stupirti. Ogni tanto siamo noi solo quando siamo soli. O siamo un mondo di cose in una sola persona. Mi rifugierò sopra un letto di fogne ma non guardo giù. Mi difenderò, anche se il cuore la fa. Non pensarci più, non pensarci più. So che da qualche parte c'è la mia tribù. Dove ancora non lo so. Dove ancora non lo so.